L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Ventiduesima puntata. Il duello di Rinaldo e Ruggero. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. È in un brutto momento che Ruggero torna al campo da Gramante in Arl. Come se non bastassero i vuoti che si sono aperti nelle schiere maomettane, dall'Africa arrivano cattive notizie che nessuno s'aspettava. Astolfo ha guidato attraverso il deserto un esercito di nubiani e ha conquistato Biserta. Agramante raduna un consiglio di guerra. Conviene che l'armata saracena lasci la Francia per salvare l'Africa, oppure resista e, approfittando dell'assenza d'Orlando, cerchi di sconfiggere Carlo nel suo territorio. Marsilio, re di Spagna, è di questo secondo avviso, ma il vecchio e saggio Sobrino, sicuro che in campo aperto i Mori avrebbero la peggio, fa un'altra proposta: definire la guerra con il confronto di due campioni, accordandosi con Carlo in modo che il re del campione soccombente resti tributario dell'altro. È alla valentia di Ruggero che re Agramante può confidare la sua sorte. Dal canto suo, Carlo Magno, accettando le regole della sfida, sceglie Rinaldo come proprio campione. Ecco dunque dove la vicenda, passo passo, ha portato Ruggero e Bradamante. Da eroi d'epopea e d'avventura quali erano, tutto era calcolato per promuoverli al rango d'eroi di tragedia classica, straziati da un conflitto interiore. Ruggero, per essere degno dell'onore che il suo re gli fa, eleggendolo a campione, deve cercare d'uccidere il fratello della donna che ama. Non può né augurarsi di vincere, né rassegnarsi alla viltà. Bradamante deve assistere muta e immobile a un duello mortale tra il fidanzato e il fratello, un duello che, comunque vada, finirà con un lutto crudele e renderà impossibili le nozze. Per fortuna le è vicina la maga Melissa, che promette di ricorrere alle sue arti negromantiche per scongiurare la tragedia. Rinaldo, che esaltar molto, si vede che in Carlo e in lui, di quel che tanto pesa, via più che in tutti gli altri, ha avuto fede, lieto si mette all'onorata impresa. Ruggier non stima, e veramente crede che contro sé non potrà far difesa, che suo pari esser possa, non gli è avviso, sebbene in campo a Mandricardo ucciso. Ruggier, dall'altra parte, ancor che molto onor gli sia che il suo re l'abbia eletto e pel miglior di tutti buoni tolto a cui commetta un sì importante effetto, pur mostra affanno e gran mestizia in volto, non per paura che gli turbi il petto, che non con sol Rinaldo, ma non teme se fosse con Rinaldo Orlando insieme, ma perché vede esser di lui sorella la sua cara e fidissima consorte, cognor scrivendo stimula e martella, come colei che è ingiuriata forte. Or, sa le vecchie offese aggiunge quella d'entrare in campo, a porle il frate a morte, se la farà d'amante, così odiosa, ch'applacarla mai più fia dura cosa. Se tacito Ruggier s'affligge e tange della battaglia che malgrado prende, la sua cara moglier lacrima e piange, come la nuova India poche ore intende. Batte il bel petto, e l'aure chiome frange, e le guance innocenti riga e offende, e chiama con ramarichi e querele Ruggero ingrato e il suo destin crudele. D'ogni fin che sortisca la contesa, a lei non può venirne altro che doglia. Ch'abbia morir Ruggero in questa impresa, pensar non vuol, che par che il cor le toglia. Quand'anco per punir più d'una offesa la ruina di Francia, Cristo voglia, oltre che sarà morto il suo fratello, seguirà un danno a lei più acerbo e fello, che non potrà, se non con biasmo e scorno e nemicizia di tutta sua gente, fare al marito suo mai più un ritorno, sì che lo sappia ognun pubblicamente, come s'avea, pensando notte e giorno, più volte disegnato nella mente. E tra lor era la promessa tale che il ritrarsi e il pentir più poco vale. ma quella usata nelle cose avverse di non mancarle di soccorsi fidi, dico Melissa Maga, non sofferse udirne il pianto e i dolorosi gridi, e venne a consolarla, e le proferse, quando ne fosse il tempo, alti sussidi, e disturbar quella pugna futura di che la piange e si pon tanta cura. Rinaldo, intanto, e l'inclito Ruggero apparecchiavan l'arme all'attenzone, di cui dovea l'eletta al cavaliero che del romano imperio era campione. E come quel, che poi che il buon destriero perde baiardo andò sempre pedone, si elesse a pie, coperto a piastra e a maglia, con lazza e col pugnal far la battaglia. O fosse caso, o fosse pur ricordo di Malagigi, suo provido e saggio, che sapea quanto Balisarda ingordo il taglio avea di fare all'arme oltraggio, combatter senza spada, fur d'accordo l'uno e l'altro guerrier, come detto aggio. Del luogo s'accordar presso alle mura dell'antico Arli, in una gran pianura. Appena avea la vigilante aurora dall'ostel di Titon fuor messo il capo per dare al giorno terminato e all'ora che era prefissa la battaglia capo, quando di qua e di là vennero fuori i deputati, e questi in ciascun capo degli steccati i padiglion tiraro, appresso ai quali ambi un altar fermaro. Non molto dopo, instrutto a schiera, si vide uscir l'esercito pagano. In mezzo, armato e suntuoso, v'era di barbarica pompa il re africano, e su un baio corsier di chioma nera, di fronte bianca e di due piè balzano, a par con lui venia Ruggero, a cui servir non è Marsilio Altiero. L'elmo, che dianzi con travaglio tanto trasse di testa al re di Tartaria, l'elmo che celebrato in maggior canto portò il troiano Ettor 1000 anni pria, gli porta il re Marsilio accanto accanto. Altri principi ed altra baronia sanno partite l'altr'arme fra loro, ricche di gioie e ben fregiate d'oro. Dall'altra parte, fuor de gran ripari, re Carlo uscì con la sua gente d'arme, con gli ordini medesimi e modi pari che terria se venisse al fatto d'arme. Cingonlo intorno ai suoi famosi pari, e Rinaldo è con lui con tutte l'arme, fuor che l'elmo che fu del re Mambrino, che porta Ugier danese paladino. E di due azze ha il duca Namo l'una, e l'altra Salamon, re di Bretagna. Carlo, da un lato, i suoi tutti raguna, dall'altro son quei d'Africa e di Spagna. Nel mezzo non appar persona alcuna. Voto riman gran spazio di campagna, che per bando comune a chi vi sale, eccetto ai due guerrieri, è capitale. Poiché dell'arme la seconda eletta si die al campion del popolo pagano, due sacerdoti, l'un dell'una setta, l'altro dell'altra, uscir coi libri in mano. In quel del nostro è la vita perfetta scritta di Cristo, e l'altro è l'Alcorano. Con quel dell'Evangelio si fe in ante l'imperator, con l'altro il re Agramante. Giunto Carlo all'altar, che statuito i suoi gli aveano, al ciel levò le palme e disse: «O Dio, c'hai di morir patito per redimer da morte le nostr'alme. O donna, il cui valor fu sì gradito che Dio prese da te l'umane salme e 9 mesi fu nel tuo sant'alvo, sempre serbando il fior virgineo salvo. Siatemi testimoni, ch'io prometto per me e per ogni mia successione al re Agramante e da chi dopo eletto sarà al governo di sua regione, dar 20 some ogni anno d'oro schietto, s'oggi qui riman vinto il mio campione. E ch'io prometto subito la triegua incominciar, che poi perpetua segua. E se in ciò manco, subito s'accenda la formidabile ira d'ambidui, la qual me solo e i miei figliuoli offenda, non alcun altro che sia qui con noi, sì che in brevissima ora si comprenda che sia il mancar della promessa a voi». Così dicendo, Carlo sul Vangelo tenea la mano e gli occhi fissi al cielo. Si levan quindi, e poi vanno all'altare, che riccamente avean pagani adorno, ove giurò Agramante, coltre al mare con l'esercito suo, faria ritorno, ed a Carlo daria tributo pare, se restasse Ruggier vinto quel giorno, e perpetua tra lor triegua saria, coi patti che avea Carlo detti pria. E similmente, con parlar non basso, chiamando in testimonio il gran Maumette, sul libro chi mantiene il suo papasso, ciò che detto ha, tutto osservar promette. Poi dal campo si partono a gran passo, e tra i suoi l'uno e l'altro si rimette. Poi quel par di campioni a giurar venne, e il giuramento lor questo contenne. Rugger promette, se dell'attenzione il suo re viene o manda a disturbarlo, che né suo guerrier più, né suo barone esser mai vuol, ma darsi tutto a Carlo. Giura Rinaldo ancor, che se cagione sarà del suo signor quindi levarlo, finché non resti vinto egli o Ruggero, si farà da Gramante cavaliero. Poi che le cerimonie finite hanno, si ritorna ciascun dalla sua parte, né v'indugiano molto, che lor danno le chiare trombe segno al fiero Marte. Or gli animosi a ritrovarsi vanno, con senno i passi dispensando e tarte. Ecco si vede incominciar l'assalto, sonare il ferro, or girar basso, or alto, or innanzi col calce, or col martello, accennan quando al capo e quando al piede, con tal destrezza e con modo sì snello, ch'ogni credenza il raccontarlo eccede. Rugger, che combattea contro il fratello di chi la misera alma gli possiede, a ferirlo venia con tal riguardo che stimato ne fu manco Gagliardo. Era a parar più che a ferire intento, e non sapea egli stesso il suo desire. Spegne Rinaldo saria malcontento, né vorria volentieri egli morire. I due campioni combattono appiedati, armati d'azza, che sarebbe un'asta con in cima una testa di martello. Ruggero bada solo a difendersi, nel terrore di macchiarsi del sangue del futuro cognato, mentre Rinaldo, che non sa nulla dell'innamoramento della sorella, attacca con accanimento. I saraceni, vedendo l'inferiorità del loro campione, si disperano. In quel momento ecco che un guerriero gigantesco accorre alla tribuna da Gramante. È Rodomonte, tornato dal suo sdegnoso ritiro, che esorta il re a rompere i patti e a invadere il campo con le sue schiere. Non c'è altra via di salvezza per loro. Lui, Rodomonte, è pronto ad assumere la responsabilità d'aver violato gli accordi. Se Rodomonte è con noi, i rapporti di forze cambiano a nostro favore, pensa Gramante, e irrompe in campo con l'esercito spiegato. Decisione precipitata oltre che scorretta, perché quel che gli era sembrato Rodomonte in carne e ossa altro non era che un'apparizione evocata dalle magie di Melissa per trarlo in inganno e liberare Ruggero e Bradamante dal loro conflitto interiore. Nella zuffa i cristiani contrattaccano i nemici sleali con furore, e dove la battaglia è più fitta scattano appaiate le lance delle due micidiali cognate, Bradamante e Marfisa. L'affanno di Rugger, ben veramente sopra ogni altro duro, acerbo e forte, di cui travaglia il corpo e più la mente, poiché di due fuggir non può una morte, o da Rinaldo se di lui possente fia meno, o se fia più, dalla consorte, che se il fratello uccide sa chi incorre nell'odio suo, che più che morte aborre. Rinaldo, che non ha simil pensiero, in tutti i modi alla vittoria aspira, mena de lazza, dispettoso e fiero, quando alle braccia e quando al capo mira. Volteggiando con l'asta il buon Ruggero ribatte il colpo e quinci e quindi gira, e se percuote pur disegna loco ove possa a Rinaldo nuocer poco. Alla più parte dei signor pagani troppo par diseguale esser la zuffa, troppo è Rugger pigro a menar le mani, troppo Rinaldo il giovine ribuffa, smarrito in faccia. Il re degli africani mira l'assalto e ne sospira e sbuffa, ed accusa Sobrin, da cui procede tutto l'error che il mal consiglio diede. Melissa, in questo tempo, che era fonte di quanto sappia incantatore o mago, avea cangiata la femminil fronte e del gran re d'Alger presa l'imago. Sembrava al viso, ai gesti, Rodomonte, e parea armata di pelle di drago, e tal lo scudo e tal la spada al fianco avea, quale usava egli, e nulla manco. Spinse il demonio innanzi al mesto figlio del re troiano in forma di cavallo, e con gran voce e con turbato ciglio disse: Signor, questo è purtroppo fallo, con giovane inesperto a far periglio contro un sì forte e sì famoso gallo, abbiate letto in cosa di tal sorte che il regno e l'onor d'Africa n'importe. Non si lassi seguir questa battaglia, che ne sarebbe in troppo detrimento. Su Rodomonte sia, né ve ne caglia l'avere il patto rotto e il giuramento. Dimostri ognun come sua spada taglia, poi ch'io ci sono, ognun di voi val 100. Poté questo parlar sì in Agramante, che senza più pensar si cacciò in ante. Il creder d'aver seco il re d'Algeri fece che si curò poco del patto, e non avria di 1000 cavalieri giunti in suo aiuto sì gran stima fatto. Perciò lance abbassar, spronar destrieri di qua di là veduto fu in un tratto. Melissa, poi che con sue finte larve la battaglia attaccò, subito sparve. I duo campion, che vedono turbarsi contro ogni accordo, contro ogni promessa, senza più l'un con l'altro travagliarsi, anzi ogni ingiuria avendosi rimessa, fede si dan, né qua né là impacciarsi, finché la cosa non sia meglio espressa, chi stato sia che i patti ha rotto in ante, o il vecchio Carlo, o il giovane Agramante. E replican con nuovi giuramenti d'esser nemici a chi mancò di fede. Sozzopra se ne van tutte le genti, chi porta innanzi e chi ritorna il piede, chi sia fra i vili e chi tra i più valenti, in un atto medesimo si vede. Son tutti parimenti al correr presti, ma quei corrono innanzi e dietro questi. Come l'evrier che la fugace fera correre intorno ed aggirarsi mira, ne può con gli altri cani andare in schiera che il cacciator lo tien, si strugge d'ira, si tormenta, s'affligge e si dispera, schiattisce indarno e si dibatte e tira, così sdegnosa infine allora stata Marfisa era quel dì con la cognata. Fino a quell'ora avean quel dì vedutesi ricche prede in spazioso piano e che fosser dal patto ritenute di non poter seguirle e porvi mano ramaricate s'erano e dolute e n'avea molto sospirato in vano. Or che i patti le triegue vide rotte, liete saltar nell'africane frotte. Marfisa cacciò l'asta per lo petto al primo che scontrò, due braccia dietro. Poi trasse il brando e in men che non l'ho detto spezzò quattro elmi che sembrar di vetro. Bradamante non fe minore effetto, ma l'asta d'or tenne diverso metro. Tutti quei che toccò per terra mise, duo tanti fur, né però alcuno uccise. Questo si presso l'una all'altra fero, che testimonie se ne fur tra loro. Poi si scostaro, ed avverir si diero, ove le trasse l'ira il popol moro. Chi potrà conto aver d'ogni guerriero, che a terra mandi quella lancia d'oro, o d'ogni testa che tronca o divisa sia dall'orribil spada di Marfisa? Come al soffiar de più benigni venti, quando Appennin scopre le erbose spalle, muovonsi a paro due turbidi torrenti che nel cader fan poi diverso calle, svellono i sassi e gli arbori eminenti dall'alte ripe e portan nella valle le biade e i campi e quasi a gara fanno a chi far può nel suo camin più danno, così le due magnanime guerriere, scorrendo il campo per diversa strada, gran strage fan nell'africane schiere, l'una con l'asta e l'altra con la spada. Tiene Agramante appena le bandiere la gente sua che in fuga non ne vada. In van domanda, in van volge la fronte, ne può saper che sia di Rodomonte. A conforto di lui rotto avea il patto, così credea, che fu solennemente i dei chiamando in testimonio fatto. Poi s'era dileguato sì repente. Né Sobrin vede ancor. Sobrin ritratto in Arli s'era, e dettosi innocente, perché di quel pergiuro aspra vendetta sopra Agramante il dì medesimo aspetta. Marsilio anco è fuggito nella terra, sì la religion li preme il cuore. Perciò male Agramante il passo serra a quei che mena Carlo imperatore d'Italia, di Lamagna e d'Inghilterra, che tutte gente son d'alto valore ed hanno i paladini sparsi tra loro come le gemme in un ricamo d'oro. E presso ai paladini alcun perfetto, quanto esser possa al mondo cavaliero, Guidon Selvaggio, l'intrepido Petto e i due famosi figli d'Oliviero. Io non voglio ridir, ch'io l'ho già detto, di quel par di donzelle ardito e fiero. Questi uccidean di genti saracine, tanto che non v'è numero né fine. Tra gli africani, re Marsilio e re Sobrino non vogliono avere a che fare con un re mancatore di parola e abbandonano Agramante. Egli è solo nella disfatta, inseguito da quelle due tigri agilissime e spietate che sono Marfisa e Bradamante sul campo di battaglia. Una sola via di salvezza gli resta, ed è la flotta. Il re sconfitto salpa verso l'Africa. Naviga per 3 giorni e una gran squadra di galee cristiane gli sbarra il passo. Una nube di frecce subissa la nave da Gramante, poi una valanga di sassi lanciati da catapulte, e le falariche incendiarie fanno il resto. Ma da dove era uscita questa flotta cristiana che nessuno sapeva che esistesse? L'aveva fatta sorgere per incantesimo Astolfo, gettando in mare una manciata di ramoscelli e foglioline. Fu quasi il re Agramante abbandonato nel pericol maggior di quella guerra, che con molti pagani era tornato Marsidio e il re Sobrin dentro alla terra. Poi sull'armata è questo e quel montato, che dubbi avean di non salvarsi in terra, e duci e cavalier del popol moro, molti seguito avean l'esempio loro. Pure Agramante la pugna sostiene, e quando finalmente più non puote, volta le spalle e la via dritta tiene alle porte non troppo indi remote. Rabican dietro in gran fretta gli viene, che Bradamante stimola e percuote. D'ucciderlo era disiosa molto, che tante volte il suo Rugger le ha tolto. Il medesimo desir Marfisa avea, per far del padre suo tarda vendetta, e con gli sproni quanto più potea, facea il destrier sentir che l'avea fretta. Ma nell'una nell'altra vi giungea sì a tempo, che la via fosse intercetta al re d'entrar nella città serrata, ed indi poi salvarsi in sull'armata. Come due belle e generose parde che fuor dell'ascio sien di pari uscite, poscia chi cervio le capre gagliarde indarno aversi veggano seguite, vergognandosi quasi che fur tarde, sdegnose se ne tornano e pentite, così tornar le due donzelle quando videro il pagan salvo, sospirando. Non però si fermar, ma nella frotta degli altri che fuggivano cacciarsi, di qua di là facendo ad ogni botta molti cader senza mai più levarsi. A mal partito era la gente rotta, che per fuggir non poteva ancor salvarsi. Cagramante avea fatto per suo scampo chiuder la porta c'uscia verso il campo e fatto sopra il rodano tagliare i ponti tutti. Ah, sfortunata plebe, che dove del tiranno utile appare, sempre in conto di pecore e di zebe. Chi s'affoga nel fiume e chi nel mare, chi sanguinose fa di sé le glebe, molti perir, pochi restar prigioni, che pochi a farsi taglia erano buoni. Della gran moltitudine c'uccisa fu da ogni parte in quest'ultima guerra, benché la cosa non fu ugual divisa, che assai più andar dei saracini sotterra per man di Bradamante e di Marfisa, se ne vede ancor segno in quella terra, che presso ad Arli, ove il Rodano stagna, piena di sepolture è la campagna. Abbiamo trasmesso la 22ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.